Allora, sono le 10 e 7 minuti di venerdì 9 febbraio 2024 e sono giorni in cui ritorna con puntualità svizzera la polemica sulla necessità, diciamo, per chi si occupa di comunicazione di seguire comunque il Festival di Sanremo a prescindere dal fatto che ci piaccia oppure no, per ragioni professionali. C'è un bel post di Alessandro Giglioli su Facebook in cui fondamentalmente lui rigetta la teoria per cui chi non lo segue è uno snob e comunque vorrebbe marcare la sua differenza. No, la verità è che tutti noi abbiamo, secondo me, un sacrosanto diritto poi di non vederlo se non ci interessa. È anche il mio caso. Io poi naturalmente ogni tanto ci provo, ormai da alcuni anni, perché sicuramente sarebbe interessante anche per me, per la mia ricerca, se però cambiasse qualcosa ogni tanto nel metodo, nelle pratiche, nelle dinamiche, nei comportamenti sociali che ne derivano. E il fatto è che puntualmente non cambia mai nulla. Cambia magari cioè dovrei essere aggiornato sulla singola polemica, no? Sulla questione, che so, della presenza o meno dei Jalis, o su come è vestita Loredana Bertè, per carità. Però quella non mi sembra professionalità, mi sembra fear of missing out, cioè paura di perdersi la dimensione sociale del contenuto e quindi essere parte in realtà del problema che bisognerebbe studiare, magari un po' più dall'esterno e con un occhio un po' più clinico. E, detto questo, è chiaro che mai come in questi giorni in cui siamo schiavi dell'eterno presente, ci si sente degli alieni, ecco, quando invece prendiamo noi l'iniziativa di decidere che cosa ci interessa, cioè non c'è un'unica, diciamo così, powerhouse della comunicazione che stabilisce di che cosa dobbiamo dibattere. Questa settimana evidentemente non è come se le guerre fossero sospese, non c'è più la guerra in Ucraina, non c'è più nemmeno la guerra a Gaza, le polemiche politiche sono completamente attutite, anzi si possono fare operazioni politiche sapendo di non essere rilevabili nel radar dei media in questo momento, esattamente come lo scandalo dei petroli che, guarda caso, si svolse proprio durante i mondiali dell'82, non c'è nulla di nuovo. E io credo che questo sia patologico, cioè il fatto che non si parli di nient'altro, c'è qualcosa di patologico, perché evidentemente è così. E allora è chiaro che non ci rimane che riprendere in mano la nostra agenda. E nel mio caso, ecco, mai come in questi momenti mi rifugio in tutto ciò che è vecchio, paradossalmente, proprio per sfuggire alla logica del nuovo, dell'essere sempre sul pezzo, no? E mi rifugio soprattutto negli archivi. Ormai abbiamo a disposizione sempre un gigantesco, infinito archivio multimediale. Magari sarò accusato di passatismo, non importa, non mi interessa, anche perché posso sempre dire che devo occuparmi di archivi multimediali, perché, per esempio, da aprile a luglio terrò insieme a Bruno Mastroianni un corso finanziato dal PNRR e organizzato dall'Istituto Cinecittà Luce, e proprio per formare, diciamo, questa nuova professione molto promettente, secondo me, cioè dei comunicatori in rete degli archivi. E naturalmente, siccome lo stiamo preparando insieme a questo corso, sto facendo parecchia ricerca in questi giorni, sto mettendo insieme il programma, tutti i temi. È un tema anche e soprattutto politico, no? Non bisogna solo imparare tecnicamente come e cosa condividere, come e cosa digitalizzare, cioè non è questo il punto. È che se torniamo a dare una dimensione relazionale anche al passato, se torniamo a dare ai contenuti che arrivano dal passato, quel ruolo fondamentale di chiave di interpretazione del presente, allora possiamo dare sostanza a quel motto un po' vuoto, e cioè chi non ha memoria non ha futuro. Ed è interessante che in mezzo, sospesa quasi infinitesimale, c'è ancora questa dimensione sottilissima del presente in cui veniamo tutti trattenuti, per esempio questa settimana, col preciso obiettivo di farci perdere di vista sia il passato sia il futuro.